ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. La vigilia della partenza. La sera prima che Clara Gulla di Skrolica partisse per Stoccolma, Jan, suo padre, non la finiva più di trafficare con tutto quello di cui doveva occuparsi. Appena rientrato dal lavoro, dovette andare nel bosco a cercar legna. Poi si mise a riparare un asse del cancello, che pendeva giù, spezzata già da un anno. Fatto questo, cominciò a raccogliere e a mettere in ordine i suoi arnesi da pesca. E per tutto il tempo si stupiva di non provare un vero e proprio dolore. Era ridiventato come 18 anni prima. Non gli riusciva più di sentirsi né felice né triste. Il cuore gli si era fermato, come un meccanismo dopo una scossa violenta, quando aveva veduto Clara Gulla sulla cima dello Snipa spalancare le braccia per abbracciare il mondo intero. Era come 18 anni prima. Allora Roger si era dato che va a ritrarre le grasse che gli arrivava la bimbetta, ma a lui proprio non interessava neanche un filo. Ora tutti quanti si aspettavano che fosse disperato e abbattuto, ma non era né l'uno né l'altro. La casetta era piena di gente venuta a salutare Clara Gulla. Jan si vergognava proprio di entrare lasciando vedere che non piangeva né si lamentava. Meglio restar fuori. Ad ogni modo era un bene per lui che fosse così. Se fosse stato come prima, non sapeva come avrebbe resistito alla nostalgia e al dolore. Passando poco prima davanti alla finestra, aveva visto che la stanza era adorna di rami. E sulla tavola c'erano tazze da caffè, esattamente come nel giorno a cui stava pensando. Katrin aveva voluto fare un po' di festa per la figlia che doveva partire per il vasto mondo per salvare la casetta. Piangevano davvero là dentro, sia quelli venuti a salutare che le due donne di casa. Udiva il pianto di Clara Gulla fin dal cortile, ma non gli faceva nessun effetto. «Signori cari», mormorò fra sé mentre stava lì fuori, «è proprio come deve essere. Guardate gli uccellini. Sono gettati fuori dal nido se non se ne vanno spontaneamente. No, va bene così. I giovani non possono rimanere nel sindacato a carico di noi vecchi. Devono andarsene per il mondo loro, miei cari signori». Alla fine tornò la quiete nella casetta. I vicini se n'erano andati di sicuro e Jan poteva azzardarsi ad entrare. Tuttavia andò a trafficare con gli arnesi da pesca ancora per un po'. Preferiva che Clara Gulla e Katrina fossero coricate e addormentate prima di varcare la soglia. Quando non udì più nulla per parecchio tempo, scivolò pian piano verso la casa, come un ladro. Ma le donne non erano andate a letto. Passando davanti alla finestra aperta, vide Clara Gulla. Sedeva con la testa reclinata fra le braccia stese sul tavolo. Sembrava che piangesse. Katrina, in fondo alla stanza, stava avvolgendo il suo scialle attorno al fagotto dei vestiti di Clara Gulla. «Potete pure lasciar stare, mamma», disse la giovinetta senza sollevare il capo. «Vedete bene che papà è arrabbiato con me perché parto». «Gli passerà», disse Katrina tranquillamente. «Sì, lo dite perché non vi importa di lui. Voi pensate soltanto alla casa, ma vedete, papà e io siamo una persona sola. Io non ci vado lontano da lui». «La casa da loro?» chiese Katrina. «Per la casa vada come vuole, purché papà mi voglia bene di nuovo». Jan si allontanò piano dalla porta e si sedette sulla soglia. Non credeva che Clara Gulla sarebbe rimasta a casa. No, sapeva meglio di chiunque che doveva partire. Ma fu come se il piccolo tenero involto gli fosse stato di nuovo posto fra le braccia. E il cuore riprese a battere. E batteva a una tale rapidità come se fosse stato fermo per anni e avesse bisogno di recuperare il tempo perduto. E nello stesso istante Jan sentì che adesso era rimasto senza difesa e senza riparo. Adesso arrivavano il dolore e lo struggimento. Li vide là, come ombre nere, sotto gli alberi. Aprì le braccia e le protese, e un sorriso felice gli illuminò il volto. «Benvenuti, benvenuti», disse a quegli ospiti. Sul pontile. quando il vaporetto Anders Frixel si staccò dal pontile del promontorio di Borg con a bordo Clara Gulla di Skrolika, Janehart Kringlina rimase a guardarlo finché non vi fu più traccia né del battello né della ragazza. Tutti gli altri che per un motivo o per l'altro erano scesi al pontile se ne andarono. Lo spedizioniere ammainò la bandiera e chiuse il magazzino delle merci, ma Jan e Katrina non si mossero. Era ben naturale che stessero lì finché avevano l'impressione di distinguere ancora il battello, ma perché non se ne andarono neanche dopo non lo sapevano neppure loro. E forse era questo. Avevano paura di rientrare nella casa vuota senza altra compagnia che loro stessi. «Adesso è soltanto a lui che devo preparare da mangiare», pensava Katrina. «Ho soltanto lui da aspettare. Ma che mi importa di lui?» Per quel che mi riguarda avrebbe potuto anche andarsene via con lei. Era la ragazza che si intendeva di lui e delle sue bambinaggini, non io. Mi andrebbe meglio essere sola. Sarebbe più facile tornare a casa soli, col proprio dolore, senza questa vecchia acida Katrina seduta lì nella stanza, pensava Jan. La ragazzina sapeva come prenderla per addolcirla e rallegrarla. Ma ora non c'era più da aspettarsi una parola affettuosa da quella parte. A un tratto Jan trasalì. Si chinò in avanti, percuotendosi le ginocchia dallo stupore. Un'animazione nuova gli si accese negli occhi, il volto gli si illuminò radioso. Teneva lo sguardo fisso sull'acqua, e Katrina non poté non credere che vi vedesse qualcosa di straordinario, benché lei, che gli era accanto, non riuscisse a scorgere nulla. Assolutamente nulla, tranne le piccole onde verde-grigie che si inseguivano sulla superficie dell'acqua in un gioco senza fine. Jan corse sul pontile fino al limite estremo, e lì si chinò sull'acqua con l'espressione che aveva sempre quando Clara Gulla gli si faceva incontro e che mai gli veniva quando parlava con qualcun altro. La bocca si aprì e le labbra si mossero, ma non una parola giunse a Katrina. Una serie di sorrisi gli passava sul volto, proprio come se la ragazza fosse lì a scherzare con lui. «Ma Jan», disse Katrina, «che diavolo ti succede?» Jan non rispose e fece soltanto cenno con la mano di star zitta. Poco dopo si raddrizzò leggermente, ed era evidente che con lo sguardo seguiva qualcosa che si allontanava sulle onde grigie, chissà mai che cosa. Quel qualcosa spariva rapidamente nella direzione del vaporetto. Jan non era più chinato, ma si teneva dritto, riparando gli occhi con la mano per poter vedere meglio. Rimase così finché chiaramente non ci fu più nulla da guardare, allora si volse a Katrina. «Andi, si piace a lei». «Ma tu non hai visto niente?» chiese. «Che cosa vuoi che ci sia da vedere qui, se non il lago e le onde?» domandò a sua volta Katrina. «Era la ragazzina. È venuta remando», rispose Jan abbassando la voce in un sussurro. «Si è fatta prestare la barca dal capitano. Ho visto che aveva lo stesso stemma del vaporetto. Ha detto che aveva dimenticato una cosa partendo, una cosa di cui voleva parlarci». «Ma andiamo, non sai quel che dici», esclamò Katrina. «Se la ragazza fosse tornata indietro l'avrei ben vista anch'io». «Zitta ora, devi sentire quel che voleva da noi», mormorò Jan, sempre con quell'aria misteriosa e solenne. «Era che si preoccupava di come ce la saremmo passata noi due. Prima ha detto, c'era lei tra noi, e ci teneva me per una mano e te per l'altra. E in questo modo tutto era andato bene. Ma adesso che non c'era più lei a tenerci insieme, non sapeva come ce la saremmo cavata. Forse ora papà e mamma se ne andranno ognuno per conto suo», ha detto. «Cielo, che abbia potuto pensare a questo?» esclamò Katrina. Era tanto sconvolta da quelle parole che esprimevano così esattamente i suoi pensieri, da dimenticare che non era possibile che la figlia fosse arrivata a Remi fino al pontile e avesse parlato con suo marito senza che lei neanche se ne accorgesse. «Così sono tornata indietro per mettere le vostre mani l'una nell'altra. E non lasciatele andare. Tenetele ben strette, per amor mio, finché non tornerò a prendervi ciascuno per mano, come un tempo», ha detto. E detto questo, è subito ripartita sulla sua barca. Per un po' ci fu silenzio sul pontile. «Ecco qui la mia mano», mormorò Jan con voce malsicura, come fosse al tempo stesso timido e ansioso. E tese una mano ancora incredibilmente morbida nonostante il duro lavoro. «È perché la ragazzina lo vuole», soggiunse. «Sì, ed ecco qui la mia», disse Katrina. Non capisco bene che cosa tu possa aver veduto, ma se tu e la ragazzina volete che ci teniamo uniti, lo voglio certamente anch'io. E camminarono tenendosi per mano per tutta la strada del ritorno verso casa. La lettera. Clara Gulla di Scrolica mancava da un paio di settimane e una mattina Jan, suo padre, stava riparando lo steccato di un pascolo a poca distanza dalla grande foresta. Era sufficientemente vicino da sentire lo stornire degli abeti e vedere la femmina dell'urogallo andare a beccare sotto gli alberi, seguita dalla lunga fila dei suoi piccoli. Aveva pressoché finito il lavoro quando sentì un forte muggito echeggiare sulla montagna. Sembrava così sinistro che ne fu quasi spaventato. Rimase fermo, in ascolto, e presto si udì di nuovo. Ma quando si ripeté un'altra volta ancora, capì che non c'era da spaventarsi. Al contrario, era certamente qualcuno che chiamava aiuto. Gettò via pali e vimini e si incamminò attraverso il boschetto delle betulle, addentrandosi nella nera foresta di abeti. Non ebbe bisogno di spingersi tanto lontano per vedere di che si trattasse. C'era un grande e pericoloso acquitrino lassù, ed era accaduto proprio quel che aveva immaginato. Una delle mucche dei padroni di falla era sprofondata nelle sabbie mobili. Era la migliore mucca della stalla. La riconobbe subito. Una per la quale a Lars Gunnarsson erano stati offerti 200 scudi. Affondava già nel fango ed era talmente atterrita ormai che non si muoveva e non faceva che emettere di tanto in tanto deboli muggiti. Ma Jan vide subito quanto aveva lottato prima. Era schizzata di melma fino alle corna, e le verdi zolle di muschio tutt'intorno erano per un bel tratto sradicate. Muggiva in modo tale che a Jan sembrava impossibile che non l'avessero sentita in tutte le Askedalar. Ma nessun altro, all'infuori di lui, era salito fino all'acquitrino. Non indugiò un istante, e appena chiarito come stavano le cose, corse giù nella fattoria a cercare aiuti. Fu un lungo lavoro sistemare assi e pali sull'acquitrino e mettere corde sotto la mucca per issarla. Era sprofondata fino al collo e teneva soltanto la testa fuori dal fango quando riuscirono a raggiungerla. Dopo che finalmente l'ebbero trascinata sul terreno fermo e trasportata giù a falla, la vecchia padrona di casa mandò a dire a quelli che si erano dati da fare per la mucca di entrare a prendere il caffè. Nessuno era stato più attivo di Jan di Scrolica nel salvataggio. Era tutto merito suo se la mucca era stata salvata. E pensare che era una mucca che valeva almeno 200 scudi. Un vero colpo di fortuna questo per Jan, perché non era pensabile che i nuovi padroni potessero restare indifferenti a una simile prodezza. Una volta era accaduto qualcosa del genere al tempo del vecchio padrone. Allora era che lo era una spaccionata. L'uomo che aveva trovato il cavallo e si era adoperato per riportarlo a casa aveva ricevuto 10 scudi da Eric di Falla, benché l'animale fosse poi così mal ridotto che Eric aveva dovuto abbatterlo. Ma questa mucca era viva. Era viva e vegeta e non aveva riportato lesioni di nessun tipo. Non vi era il minimo dubbio che Jan, il giorno seguente, sarebbe andato dal sacrestano o da chiunque altro sapesse scrivere, pregandolo di inviare una lettera a Clara Gulla per richiamarla a casa. Quando Jan entrò nella casa di Falla, non poteva evitare di darsi un certo contegno. Era la vecchia padrona che serviva il caffè, e Jan non si stupì che gli porgesse la tazza persino prima che a Lars Gunnarsson. Durante il caffè tutti commentarono la prontezza di Jan. Gli unici a non dir niente erano i padroni. Né il nuovo proprietario né sua moglie aprirono bocca per proferire una parola d'elogio. Ma Jan era così sicuro che i tempi duri erano finiti e che la felicità era sulla strada di casa, che non gli era difficile trovare motivi di conforto. Poteva ben darsi che Lars tacesse soltanto perché quel che doveva dire di farsi effetto. Ma si facevano attendere un po' quei suoi elogi. E anche gli altri finirono per tacere ed avere l'aria imbarazzata. Quando la vecchia padrona di Falla offrì un secondo giro di caffè, molti facevano dei complimenti e Jan con loro. «Su, bevete, Jan!» l'incoraggiò la padrona. «Se non foste stato così svelto, voi oggi avremmo perduto una mucca che valeva i suoi 200 scudi». Vi fu un profondo silenzio. Gli occhi di tutti si volsero al padrone perché ora non ci si poteva che aspettare un ringraziamento anche da parte sua. Lars Gunnarsson si schiarì la voce un paio di volte, come per dare più peso a quello che stava per dire. «Mi sembra un po' strana questa faccenda», dichiarò. «Tutti sappiamo che Jan è debitore di 200 scudi, e tutti sappiamo che proprio quella somma mi è stata offerta la primavera scorsa per Stella. Mi sembra una coincidenza un po' troppo bella per Jan, quella caduta di Stella nella palude, e che proprio lui fosse lì a salvarla». Lars tacque, e si schiarì ancora una volta la voce. Jan si alzò, e gli si avvicinò, ma né lui né nessuno degli altri aveva una risposta pronta. Non so come sia capitato che sia stato proprio Jan a sentire la mucca lassù nell'acquitrino. Forse era più vicino di quel che vuol farci credere al momento della disgrazia. Forse ha visto una possibilità di liberarsi del suo debito ed è stato lui a spingere la mucca. A questo punto il pugno di Jan cadde sul tavolo con una tale violenza che le tazze del caffè saltarono sui piattini. «Tu giudichi gli altri secondo te stesso, tu!» gridò. «Quella è una cosa che potresti fare tu, non io. E ora che tu sappia che ho notato le tue astuzie da volpe, c'è stato un giorno quest'inverno che tu...» Ma proprio mentre Jan stava per dire qualche cosa che non poteva che sfociare in un'inconciliabile inimicizia tra lui e i padroni, la vecchia di falla l'afferrò per la manica della giacca. «Guardatela fuori, Jan», disse. Jan si volse e vide Katrina che attraversava il cortile con una lettera in mano. Era la lettera di Clara Gulla che avevano con tanta ansia atteso da quando era partita. Katrina, sapendo quanta gioia ne avrebbe avuto Jan, era venuta fin lì a portargliela. Jan si guardò intorno smarrito. C'erano molte parole piene d'ira che gli bruciavano sulla lingua, ma adesso non aveva tempo. Che gli importava di vendicarsi di Lars Gunnarsson? Che gli importava di difendere se stesso? La lettera lo attirava con una forza a cui non poteva opporsi. E si trovò fuori dalla stanza accanto a Katrina prima ancora che gli altri in casa si fossero ripresa dallo sbigottimento per le accuse che aveva osato lanciare contro il padrone. August Dar Noll. Quando Clara Gulla di Skrolika mancava già da un mese, una sera, August Dar Noll di Pratsterud si incamminò verso le Askedalar. Per molti anni era stato compagno di Clara Gulla alla scuola di Östenby. Avevano frequentato e studiato insieme le stesse estati. Era un ragazzo serio e bravo, che godeva di un'ottima reputazione. I genitori erano agiati e nessuno poteva aspettarsi un avvenire più tranquillo e promettente del suo. Negli ultimi 6 mesi era stato in viaggio e solo al ritorno era venuto a sapere che Clara Gulla era partita nel mondo per cercare di raccimolare 200 scudi. Fu a sua madre che capitò di parlargliene e senza neanche lasciarla finire, August prese il berretto e si mise per strada. E non si fermò finché non fu arrivato davanti al cancello che portava la piccola corte davanti a Skrolika. Ma giunto a quel punto, non andò oltre, e rimase lì fermo a guardare verso la casetta. Katrina lo vide, ed uscì col pretesto di prendere acqua alla fontana. Ma egli non la salutò, né fece il minimo segno di volerle parlare. Dopo un po', Jan rientrò dal bosco con una fascina di legna da ardere. Vedendolo avvicinarsi al cancello, August Dar Noll si trasse da parte. Ma appena Jan fu passato, riprese il suo posto. Era lì da un bel pezzo quando si aprì la finestra della casetta a poche braccia di distanza da lui e vide che Jan sedeva con la sua pipa a un lato della finestra e Katrina con un lavoro a maglia dall'altro. «Sì, mia cara Katrina», diceva Jan, «si sta proprio bene a quest'ora mentre si fa sera. C'è soltanto una cosa che desidererei». «Io ne desidererei 100», replicò Katrina. «E se le avessi tutte non sarei ancora soddisfatta». «Io no. Vorrei soltanto che una delle reti o qualcun altro che sappia leggere capitasse da queste parti», disse Jan, «e ci leggesse la lettera di Clara Gulla. Ma se l'hai già sentita tante volte quella lettera da quando l'hai ricevuta, che potresti quasi ripeterla a memoria parola per parola», fece Katrina. «Può anche essere», rispose Jan, «ma è così bello sentirla leggere. Mi dà l'illusione che la ragazzina stia qui a parlare con me. E vedo i suoi occhi. Vedo i suoi occhi che mi guardano e aprono l'altra da anni di un'ora che raccopotto. Sì, anch'io non avrei niente in contrario a sentirla ancora una volta», ammise Katrina gettando un'occhiata fuori dalla finestra. «Ma in una sera così chiara e bella, la gente ha di meglio da fare che passare dalle nostre parti. mi piacerebbe ancor di più del pane bianco col caffè. Potermene star qui a fumare la mia pipa ascoltando la lettera di Clara Gulla, disse Jan. Ma ho paura di aver stancato tutti nella scheda la raffuria di pregarli di leggermi la lettera. Ormai non so più a chi rivolgermi. Jan sobbalzò dallo stupore. Aveva appena finito di pronunciare quelle parole che la porta si aprì e August Darnold comparve sulla soglia. Perbacco! Arrivi come mandato dal cielo, mio caro August, esclamò Jan dopo aver salutato l'ospite e averlo invitato ad accomodarsi. Ho qui una lettera che vorrei pregarti di leggere a noi vecchi. È di una tua compagna di scuola. Forse non hai nulla in contrario a sentire come sta. August Darnold prese la lettera senza dir nulla e la lesse. Pronunciava le parole molto lentamente, quasi volesse al tempo stesso assaporarle. Quando ebbe finito, Jan disse: «È straordinario quelle leggi benedette in croca, August. Non ho mai sentito le parole di Clara Gulla suonare così belle come in bocca a te. Non vuoi darmi la gioia di rileggere la lettera ancora una volta?» Il ragazzo lesse la lettera una seconda volta, con lo stesso raccoglimento. Era come se fosse giunta una sorgente d'acqua con la gola inaridita dalla sete. Quando ebbe finito, piegò la lettera e la carezzò con la mano. Al momento di separarsene dovette certo accorgersi che non era piegata bene, e gli sembrò necessario rifarlo. Poi rimase seduto in silenzio. Jan cercò di avviare una conversazione, ma non gli riuscì. Infine il ragazzo si alzò e fece per andare. «È così bello quando di tanto in tanto c'è qualcuno che ti dà una mano», fece. «Ci sarebbe anche un'altra cosa in cui avrei bisogno del tuo aiuto. Questo è il gattino di Clara Gulla. Dovremmo farlo morire ora, perché non abbiamo di che mantenerlo. Ma non riesco a decidermi a farla finita con lui, e Katrina non ha cuore di affogarlo, neanche lei. Stavamo giusto dicendo che era meglio parlarne a qualche estraneo». August Darnold balbettò qualche parola che nessuno poté udire. «Puoi mettere il gattino in una cesta, Katrina», proseguì Jan. «Così August lo prende con sé e noi possiamo non darcene più pensiero». La moglie afferrò il petto. Lo pose in una vecchia cesta, vi annodò sopra un panno e consegnò il tutto al ragazzo. «Son contento di liberarmene di questo gattino», disse Jan. «È così allegro e vivace, somiglia troppo a Clara Gulla. È meglio che vada lontano». Il giovane Darnold si diresse verso la porta senza dir nulla, ma ad un tratto si voltò. Prese la mano di Jan e la strinse. «Grazie», disse. «Mi avete dato di più di quel che voi stesso sappiate». «Questo non devi crederlo, mio caro August Darnold», disse fra sé Jan di Scrolica quando il ragazzo fu lontano. «Queste sono cose di cui mi intendo. So quello che ti ho dato, e so chi me l'ha fatto fare». Ignazio Oliva ha letto L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.